comunicare una cosa ai nostri radioascoltatori. Luciani è molto amato dai gay. Ecco qua, beccate questa, Luciani. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pensandoci, caro David, buonasera, buonasera a lei. Ma qui non si saluta, ma questa non è mica una trasmissione dove si saluta. Cioè, tu buonasera. Pensi ancora alle trasmissioni dove si saluta? Io ti prego. Buon inizio settimana. No, ti prego, non mi fare o mai quelli più. Quelli che dicono, ad esempio, buon martedì, buon lunedì, bellissimo. Non mi fare mai più un saluto all'inizio della trasmissione. Allora fa culo, dai. No, non così. Mi fare. No, non devi nemmeno usare queste parole. Niente. Non devi. Mai più salutare all'inizio della trasmissione. Cioè, quelli che salutano all'inizio, buonasera, buon ascolto, ben ritrovati, buon inizio a settimana. Tutti i nostri radioascoltatori. Cioè, io li prenderei a calci nel culo. Calci nel culo. Sempre. Andiamo avanti, scusa, via. Allora, mi sono ritrovato a pensare durante il weekend che in realtà ha ragione Vittorione Sgarbi. Per una cosa, cioè che alla fine, pur essendo secondo me dei personaggi politici, come dire, che alla fine di tutto, guarda, alla fine di tutto, che rappresentano per me il peggio del peggio in assoluto, però alla fine è meglio, per esempio, una come la Bindi, la signora Bindi, sì, che politicamente non mi dice nulla, poi per carità, bravissima persona, però sono, come dire, la maggior parte delle cose che dice, lei dice una cosa, io sono, di solito la penso al contrario, signora Bindi, però diceva Sgarbi, meglio la Bindi. Di tutte queste renziane rampanti, perché alla fine queste qua non è un caso che siano anche carine, belle, piacenti, mentre tutto quello che la Bindi si è conquistato alla fine se l'è conquistato da solo. Cioè, non è bellissimo per la Bindi, perché dice Sgarbi, il sottinteso di questa roba è che sono delle mezze cozze, diciamo, no? E dunque tutto quello che hanno conquistato non lo devono alla propria, cioè, no, che non hanno puntato sulla femminilità, ma, ecco, beh, sì, cioè, non è proprio bellissimo col politicamente però, corretto, sentiamo. Esattamente, sia la Camusse che la Rosy Bindi non rivalutate rispetto al fatto che il loro posto l'hanno conquistato senza che nessun uomo gliel'abbia concesso. Ma se non metteva capolista la Bonafè, la Moretti, la Picerno, quando mai sarebbero queste diventate deputate europee? Dietro di lei, dietro di loro c'è sempre Renzi, che ha stabilito per loro il loro posto e ha voluto loro a quel posto. Perché belle, perché gradevoli, perché eleganti, perché giovani, perché tutto quello che ti pare. Allora, ha ragione Rosy Bindi che dice non basta essere belle anche se brave. Poi quando uno vede la Turco, la signora Turco, piangere oggi, all'aria che tira, Era commovente. Condotta, ma quale commovente? Da Mirta Merlino, condotta ma commovente. Era commovente. Ma io conosco Livia per Turco. Vecchi comunisti come te. Vecchio, dai, vecchio sei tu, ma intanto. Tu sei vecchio, vecchio dentro. Tu mal sei vecchio vissuto, dentro. Sei tu io vecchio. Mal vissuto sicuro. Poi parleremo di alcune foto che sono state pubblicate in questi giorni, ma dopo, perché abbiamo tempo. Dopo, sì. Ma il pianto di Livia, sì, Turco, come il pianto di Achille Occhetto alla Bolognina. Come queste cose emozionano solo te. Cioè, no, ma chi ha un minimo, sentiamo, di passione politica, perché era tutto vero. Tutto vero. Sentiamo. Devo dire che mi fa molto soffrire vedere tanti che non si iscrivono più al PD. E quei tanti sono quelli che vengono da una storia di sinistra. E quindi quello che io chiedo al segretario del mio partito è quello di avere considerazione per queste storie, per questi militanti, per queste persone che hanno dato molto al nostro paese e che in questo momento sentono il PD un po' lontano. Allora ragazzi, posso dire una cosa, ma basta, ma basta con questa storia dell'iscrizione. Sono un cinico come stai te, tranquillo, lei... posso dire una cosa, no, basta con dire, la basta... Stai dire una stupidaggine. No, non sto dicendo una stupidaggine, vabbè, basta con la storia dell'iscrizione delle tessere del partito. È una roba vecchia, finita, morta. Parlava delle per tante compagne e dei tanti compagni che hanno costruito le case del popolo, sul territorio, che hanno imparato a leggere e scrivere, hanno insegnato ai contadini a leggere e scrivere, parlava di una passione politica civile che vecchia, oggi non finita, esiste più. Morta. Roba vecchia, arriva finita, lui ricco. Morta. Roba vecchia, ma che c'entra adesso Enrico? Si finanzia il partito, certo, con le cene. Assolutamente sì. Salmone. Assolutamente sì. Ma dai, la politica è anche sangue e merda, come diciamo noi. E c'è il sangue nelle vene di Livia. Sangue. Sì. A me non mi ha fatto commuovere per niente. L'ho trovata una cosa. Tu sei cinico. L'ho trovata una cosa da Istituto Luce, perché vecchia, antica, Istituto morta. Istituto Luce. Una roba da bianco e nero. Una roba da bianco e nero. Perché? Per non dire di peggio, ma diremo di peggio perché abbiamo tempo. Bauro, signor Bauro, slogan: come mai sempre in culo agli, non lo dice lui, sempre in culo agli operai, dice Bauro, è sempre attuale perché secondo Bauro lo stanno mettendo in culo agli operai, che è un'altra cosa patetica, ridicola, ma insomma è Bauro. C'era un vecchio slogan, operaio sono vecchio, che diceva come mai sempre in culo agli operai, diceva così, è uno slogan che è purtroppo ancora attualissimo. Altra cazzata. Tu lo sai, Parenzo, che Matteo Renzi aveva promesso a un certo punto che la RAI, per carità, non è che può fare tutto, anche dirigere la RAI, che la RAI avrebbe smesso di mandare come inviati 3-4 persone sullo stesso evento, con 3-4 telecamere, 3-4 se non di più assistenti, eccetera, eccetera. Beh, si scopre che in Australia, al G20, dove è ancora, credo, Renzi, se non è già tornato, la RAI ha mandato 5 inviati con le troupe. G20, no, sarà per i diversi TG, sarà certo, TG1, grazie, TG2, TG3, Rai News 24. E grazie al cazzo, è certo che è per quello, appunto. No, non è, come dire, tu dici bastava mandarne uno, ma certo, è per normale, fare, amico tutti, mio, è normale. Ma c'era il koala anche da intervistare, ma non c'era il koala, è che tutti quanti c'era. Devono far vedere la propria banderina per non morire, ma e io pago, però e pure fino a tu quando paghi. Ci sono 3 telegiornali, che devi fare, Rai 1, Rai 2, ma stai Rai dicendo delle banalità, però non te ne rendi conto, però più tardi te ne renderai conto. Sì. Ma abbiamo con noi, la settimana in modo decoroso con magari Lorenza Carlassarre, costituzionalista, Antonio Polito, con Ferruccio De Bortoli, un grande combattente. Il problema fondamentale è che la Lega va di moda, cioè mi hanno spiegato che invitare una persona della Lega in televisione fa alzare gli ascolti, sì, porta Matteo, porta dal 2 al 3%. Ma ti rendi conto? Ma anche gli altri della Lega portano un po' meno. Ma portano. Meno, ti assicuro. Cioè, mi hanno detto che Matteo è il Messi, dal 2 al 3. Che Salvini è il Messi degli ascolti in questo momento. Il Messi degli ascolti. Mi dice non il Viperetta degli ascolti. No, il Messi. Che c'entra Viperetta? Viperetta parlando di sport. Però lo stanno un po' frenando il Viperetta. Mentre Salvini può andare dove vuole, perché comunque c'è la campagna elettorale per l'Emilia Romagna, per la Calabria, eccetera, eccetera. Gianluca Buonanno è con noi, buonasera. Ciao a tutti. Allora, ma se Salvini è il Messi degli ascolti, tu cosa sei, Gianluca? Maradona. Ma c'è anche tu sei Maradona? Anche... No, sto scherzando, io sono un mediano. Sei un mediocre, più che altro. Sono uno alla Gattuso. Mediocre sei. Alla Gattuso, che morde i polpacci, che sta lì a mordere i polpacci, capito? Sì. Mediano o mediocre? Oppure sono Tevez, ecco, che ogni tanto fa anche delle cose fantastiche e poi si mette al servizio della squadra. Senti, ma visti questi ascolti, perché non vai, che è il posto per te, all'Isola dei Famosi? Razzi ha detto di no. Saresti un politico perfetto lì, guarda. Non ti devi neanche camuffare. Non me l'abbiano chiesto, gli abbia già detto di no. Ma veramente te l'hanno chiesto? Dai, veramente ti hanno chiesto? No, su questa cosa qui non dico più niente. Era veramente una battuta, però adesso magari scopriamo un altarino, scopriamo una cosa vera. Scusami Gianluca, veramente sei qualcuno... uno, perché so che ci sono 5 politici, questo lo so per certo perché ho parlato con alcuni della produzione, sì. Sì. Non della produzione, del programma. C'è 5 politici a cui l'hanno chiesto. Uno l'abbiamo tanato ed è il signor Razzi. Il secondo sei tu allora? No. Poi c'è la Mussolini, eh? Gianluca, puoi anche dirlo, chiaramente. No, puoi dirlo. A parte tutto, secondo me all'Isola dei Famosi potrebbe andare Parenzo, no? Perché quando vanno a pescare gli manca il verme, potrebbero mettere lui. E io pago 12.000 euro al mese per uno che va a Bruxelles e che fa questo cazzo di battute. Bello, però aspetta che ogni volta che ci penso ci sbatterei la testa contro uno spigolo. Come me, tieni la canna, no? Dagli sul lamo, te lo mettono sul sederino, sì, bravo. E poi dopo vai. Sì, è una bella immagine. Noi parliamo questo, lo chiamano onorevole questo qua, capito? Ruba i quadri al Parlamento Europeo, lo chiamano onorevole anche. No, ma non ha rubato, quella era una provocazione. Sai che ha fatto l'8% quella roba lì quando andate in onda, il quadro di Buonanno rubato? Sì, l'8% ha fatto. Ecco, tu vai bene per questo, devi fare questo. E quindi vai all'Isola dei Famosi, pensaci. Ma tu andresti o no, Gianluca? Parte, No, non ci andrei perché fare il sindaco è impegnativo, fare l'europarlamentare se lo vuoi fare bene, io sono al momento al 100% anche delle presenze, impegnativo. Sì, questo è vero. E quindi assolutamente no, cioè bisogna scegliere cosa vuoi fare, insomma. Comunque ragazzi, voi sottovalutate quello che ho detto io, ma veramente un esperto di televisione e di programmi, che ogni tanto sento così a tempo perso, mi ha veramente detto questa cosa, cioè che Salvini in questo momento è il Messi degli ascolti, tant'è che è presente ovunque, in ogni trasmissione, per tutto l'arco, io non sto criticando, che ognuno fa il cazzo che vuole, però in tutto l'arco del giorno c'è Salvini. Beh, ma anche quando c'è è vero. Anche quando c'è una cena, tu non dici cazzo, mi manca uno da invitare che faccia un po' di casino, chiama Salvini. Infatti io domani sera devo fare una cena e non so come animare la discussione perché parleremo di Roma. Io dico, sicura Matteo, poi vieni con le sue felpe, Emilia, a seconda dove si vota si mette quelle felpe, no? Reggio Calabria, non l'ha messa, no, però la felpa Reggio Calabria. No, quello, Torza Piazza, nemmeno Torza Piazza. Ma di cosa stiamo parlando? No, però le felpe sono buone, le felpe sono buone. Sì. Allora, però, prima del traffico, purtroppo abbiamo sto cazzo di traffico, una cosa definitiva a buon anno. Veramente ti hanno contattato l'Isola dei Famosi, dimmi la verità, Gianluca, a me io faccio politica e faccio l'amministrazione. D'accordo, però te l'hanno chiesto. Sì, te l'hanno chiesto. Basta dire. Ma mica la 'Ndrangheta. È balenata da parte di qualcuno questa cosa. Te l'hanno chiesto. Traffico. No, me l'hanno chiesto, lascia perdere. Traffico. Traffico, di traffico è il problema. La Zanzara. Ti chiedo scusa, amore mio, però non lo faccio più. Più. Dai, sculacciami pure, non lo faccio più. Sono brutto e cattivo. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24, che è sempre il nostro numero per chiamarci. Stasera voglio dare spazio a moltissimi ascoltatori, Parenzo. Però voglio chiedere a quello che avete sentito prima, che faceva quella voce, è un deputato al Parlamento Europeo, Penso formidabile. Sono sempre io che ti sculaccio, sai, Parenzo, ti sculaccio. Deputato? Ma certo, ma qual è il problema? Europarlamentare, capito? Poi si lamentano di Juncker. Guarda che prendersi sempre troppo sul serio non è tanto ma bello. Infatti, dai, su. Sì, a proposito, scusa Gianluca, ma Salvini è andato in un campo rom per vedere un po' com'è la situazione, perché non ci vai anche tu? Sì, ci andrò, tra l'altro non voglio solo andare in un campo rom, voglio proprio andare anche negli alloggi dove ci sono persone che vanno senza averne alcun diritto, quindi diciamo così che questa sarà la mia prossima azione. Cioè, no, ma non sono gite, però, scusami. Non sono gite. Vado in montagna, vado in un campo rom. Allora, ma non funziona così la politica. No, lo so che non funziona. Cioè, non è che non funziona così. Qua a Borgosesia ci sono le case popolari, ovviamente molto più piccolo di Roma piuttosto che Milano. Però, se ci fosse una famiglia che è entrata in un alloggio popolare senza averne i diritti, fregandosene di chi c'è, io andrei là personalmente e fisicamente le sbatterei fuori. Quindi qui non succede. Senti, ma i Rom dicono, alcuni rappresentanti dei Rom dicono che la Lega è un partito razzista che va estromesso dalle elezioni, così ha detto. Sì, guarda, io 10 giorni fa ero all'Aria che tira e c'era un Rom che mi contestava che io ero razzista e mi dovevo vergognare di quello che dicevo sui Rom. Finita la puntata mi è arrivato un sms in cui mi diceva che quello che parlava a difesa dei Rom era stato appena condannato. Quindi prendere lezioni da un Rom non le prendo. Dopodiché anche quelli che li difendono, il vittimismo che fanno continuamente, io mi sono rotto le scatole di questo vittimismo continuo. Ma perché non dicono quando succede qualcosa da parte della loro gente, noi ci vergogniamo di questi delinquenti, noi siamo contro questi. Invece ma secondo te sono delinquenti, nulla. Sono delinquenti veri rom, cioè nei campi rom la maggior parte sono delinquenti, ladri? Beh, o no? Se tu vedi, cioè no, magari fuori il BMW, la Mercedes, mi devono già spiegare dove che vanno a prendere i soldi, poi hanno più oro loro che una gioielleria, mi devono spiegare come funziona, poi usano i bambini e non li mandano loro a scuola per andare a delinquere perché sono minorenni. Ma che cosa hanno allora sti rom? Cioè, non ho capito. Cioè, secondo me veramente nel in qualche cromosoma evidentemente c'è qualcosa che non quadra. Dopodiché, scusa un attimo, cromosoma? Ci sono dei rom in gamba e purtroppo ce ne sono troppi che vivono nella delinquenza, che sanno solo fare quello. Cioè, secondo te, genetica. Cioè, secondo te nel cromosoma dei rom, nel DNA c'è qualcosa che... No, adesso dico per fare un esempio, ma... Beh, come un esempio? No, per fare un esempio nel senso che sono portati a delinquere. Portati a delinquere. È un problema. Cioè, il genoma della delinquenza, cioè. No, ma... Il genoma, aspetta che me lo scrivo, genoma... della delinquenza. Beh, vediamo cosa salta fuori. Perché se uno lo googola, salta fuori Hitler, aspetta. Kapler, facendo il delinquente, facendoli andare a rubare, usando la stessa mamma che usa i figli per chiedere l'elemosina, e mandano, questo lo diceva. Insomma, come si fa a combattere? Se uno è portato a delinquere, come si fa a cambiare? Se è portato a delinquere perché ma dovrebbero essere i primi loro a fare autocritica, invece non c'è mai uno di questi che fa autocritica, mai. Cioè, o fanno le vittime oppure fanno i ponzo Pilato. Senti una cosa, siamo noi che dobbiamo intervenire. Il genoma della delinquenza, aspetta che l'ho scritto. Far vivere la gente in mezzo ai bambini, ci sono i topici. Un imbianchino nel 33 diceva queste cose. Figli? Un imbianchino mancato nel 33. Senti una cosa, basta ma con queste. Ma poi dico una cosa, scusate, compreso Parenzo, compreso tu, compreso me. Ma ci rendiamo conto, un genoma della delinquenza. Fai sentire. Sono dei rom, tu vivi tranquillo. Io chiedo a tutti quegli ipocriti. No, io non vivo tranquillo, dico io non vivo tranquillo. No, ma perché tu dire. Allora, di tutti quelli ma che cosa c'entra questo? Che dicono che i rom, se ma tu c'hai i rom vicino a casa, nell'appartamento a fianco, tu vivi tranquillo sì o no? Ma io cosa c'entra col genoma della delinquenza? Ma guarda, dice no. Senti una cosa, cambiamo così. Argomento un attimo. E tu cambi argomento. No, così. Cambi argomento con Alfano, così. Perché Alfano ha detto che non vuole la Lega, che sono razzisti, che Salvini porta al razzismo, eccetera, eccetera, che la Lega non può stare nel centrodestra. Come si risponde ad Alfano da parte di uno di quelli della Lega che piglia più voti? Buon anno. No, vabbè, allora intanto Alfano con il prefisso telefonico delle percentuali che ha il nuovo centrodestra non dovrebbe fare tanto lo schizzinoso, prima cosa. Cioè poi dici però, non conta un cazzo, dici tu, Alfano? No, conta, lui conta perché comunque fa il ministro degli interni, che è un ministro importante di peso, così come ha la Lorenzin a ministro della sanità, no? Però prendo spunto da quello che mi è capitato andando in Sicilia, proprio nella provincia dove di Agrigento, allora? Dove lui dove tra i politici più odiati, ahimè, lui era il numero uno per la questione dei clandestini che hanno rovinato praticamente il turismo da quelle parti. Vabbè. Però mi viene in mente una frase di una persona che ho conosciuto lì nella zona, che chiamava il nuovo centrodestra la nuova camorra democratica. La chiamavano loro probabilmente perché avevano qualche soggetto non cioè tanto NCD posto. Nuova camorra democratica, dici questo tu. È quello che diceva un soggetto giù in Sicilia. Ma un soggetto chi? Cioè, ma chi? Quale soggetto? Cioè, non è che uno passa per strada. No, perché io nell'andare in giro qualcuno mi riconosceva, si mettevano a parlare e dicevano nuova camorra democratica a posto di NCD. Sì, una cosa pazzesca, dai. Vabbè, dai ragazzi, abbiamo il giornale radio. Io non so chi sono lì gli esponenti, non lo so. No, però tu dici si potrebbe ribattezzare nuova camorra democratica. Ma io non lo dico, lo dicevano quelli del Vabbè, adesso non è che puoi attribuire ad altri quello che magari pensi tu. Un attimo solo, fermiamoci che c'è il giornale radio, fermi qui. Abbiamo iniziato in questo modo. Ma sono sempre io, che ti sculaccio, sai Parenzo, ti sculaccio forte forte. La Zanzara. Volevo sapere una cosa solamente. Una cosa, sì. Sì, dimmi. Eri depravato o sei diventato depravato? Sei un depravatone. Mi piace anche per quello. Anche Parenzo un po' depravato. Come state? Oh, yeah. ancora voci da Tor Sapienza. Sentite, sentite qualche abitante. Poi c'è un politico che oggi è andato là, ma che evidentemente non vuole essere riconosciuto come politico. Dice: io non sono politico, non sono la politico. La taverna. Sì, la taverna, invece sei politico, perché come sei parlamentare, senatrice 5 Stelle. Ma io non vengo qui come politico. Ma scusa, signora Taverna, ma se lei non va là come politico, che cazzo abito ci va a fare? Abito lì vicino. Ma sì, dai, su, tanto. Io sono razzista. Ma per razzista che significa per te? Io appena vedo, fatti conto, c'è pelle nera. Io non ci riesco a piangere. Quindi se poi loro non vanno via, non vengono, restano qui, che succede? Lo faremo noi, lo faccio via. Mettere una bomba. No, sono scherzata, una bomba rotta. Mettiamo una bomba, però va bene. Paola Taverna, 5 Stelle, Senato, è andata a Tor Sapienza. Sentite come l'hanno accolta. No, non vogliamo esponenti politici. Perché sono esponenti politici? E mi metto 5 Stelle che ha la Caritas. Ma che risulta che io da qualche scuola vengo a fare politica per farmi cazzi miei o per risolvere? Ma perché, ma scusa un attimo, ma fino a lunedì ma indossavo? Ma io non indossavo, ma stavo indossavo. Va bene, io voglio la gente del quartisciolo, io non voglio un esponente. Ma io so la gente del quartisciolo. Ma tu sei Movimento 5 Stelle. Ma perché quando è non viene, qua è stata cacciata via Meloni, Borghezzi, qua non volevo politica. Io non so. Non volevo accattonaccio da voi. Mamma mia ragazzi, io non so politica, ma sei senatrice dei 5 Stelle, a che titolo vai lì se non come senatrice dei 5 Stelle? E poi che vuol dire non so politica? La politica serve a risolvere dei problemi, se quei problemi si sono presentati fino adesso in quel posto è perché la politica non ha fatto una beneamata mazza, dunque uno dovrebbe andare lì come politico, rivendicare il proprio ruolo, dire io sono qui per cercare di capire i vostri problemi. No, siccome quelli politici non ce li vogliono, che è un'altra contraddizione, un'altra follia, perché altrimenti cosa chiedono alle autorità? Chi chiedono? Le autorità sono la politica, no, non è che sono là, vengono dall'iperspazio, dall'iperuranio, vengono da, perché sono scelti dagli stessi che adesso protestano. Ancora taverna. No, Movimento 5 Stelle che cos'è? Non è un movimento politico. Non mi voglio la politica. Io ci sono tanto venuta. Lei stava in televisione l'altro giorno. A noi da quello che fate di 3.000 euro e campi 10 persone, non ce ne frega niente. È vero, non funziona questo. Non funziona così. Io non so politico. È chiaro. No. Io so se la dice, mi dica la Paola. Io non so, questa scena mi è veramente devi chiamare Paola. No, ma dai, questa scena qua è veramente una scena penosa. Cioè, perché uno che va lì deve rivendicare, infatti io sono qui perché sono in Parlamento, certo, e forse vi posso dare una mano, forse, perché evidentemente non è così, ma comunque forse vi posso dare una mano a risolvere un problema. No, io non so politico. Ma se non sei politico, ma che cazzo ci vai a fare? Tanto non ti danno retta, esatto. No, cioè, tanto non puoi fare nulla se non sei politico. No, non vogliamo esponenti politici. No, te ne dica un altro. Nel passato c'è perché io non sono venuta qui per fare campagna elettorale o qualcosa. No, tu sai perché sei venuta, perché ti hanno dato 5 giorni di sospensione, sono col cazzo che ci stai con noi. Ma che bravo! Namo, non lo dovete fare. Namo, se non dovete fare così. Perché quando stringono i riflettori, qui che si dimenticano, come te sapete. Ma si dimenticano perché sono 10 giorni che siamo qua. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Ancora allerta meteo in gran parte del nord per le piogge in arrivo dalla Francia e Liguria, sono le frane a far paura al po' osservato speciale. Il sottosegretario Del Rio nelle zone alluvionate per i comuni colpiti deroga al patto di stabilità, 5 Stelle decreto urgente contro il dissesto. Draghi ripresa bloccata, l'aggiustamento dei conti, poche riforme e disoccupazione, se necessario la BCE è pronta ad acquistare titoli di Stato. Jobs Act accordo sul calendario, voto finale entro il 26 novembre, ma il nuovo centrodestra protesta, il testo al governo non è quello concordato. Nell'ultimo video dell'ISIS si riconoscono un gallese e due francesi, tra i boia che a volto scoperto decapitano Kassig e altri prigionieri siriani. Tensione a Milano durante gli sgombri di appartamenti occupati al lancio di pietre. I poliziotti rispondono con i lacrimogeni. Due arresti. Scontri a San Siro durante la partita Italia-Croazia, sospesa per 10 minuti, 16 ultracroati arrestati. Totti, dobbiamo riportare le famiglie allo stadio. Abbiamo con noi ancora, caro Parenzo, per la tua enorme gioia, un uomo della Lega, europarlamentare Gianluca Bonanno, ancora con noi, eccoci qui. Eccoci qua, ciao. Allora, ma è vero, Gianluca, che tu hai nominato un consulente tuo per la comunicazione? Ah sì, è venuto a trovarmi in maniera del tutto gratuita, Emilio sì. Fede. E ha fatto una serata con noi divertente e anche interessante . E quindi gli ho detto vabbè, allora a questo punto, visto che hai una grandissima esperienza e comunque sei capace di fare il giornalista molto meglio di tanti altri, se vuoi fai il nostro consulente gratuito nel comune di Borgosesi. Cioè lui è consulente per la comunicazione di Gianluca Bonanno. Scusa, sì. Cosa c'è da comunicare su Borgosesia con Fede per giunta? Scusa la domanda così proprio. Ma certo non ha preso te, Parenzo, per fare il consulente. No, ma non c'è, ma Borgo cosa? Ma per carità, ma non l'hai neanche accettato. Perché ma... Fede ha un'esperienza di 53 anni di televisione. Ma non c'è televisione, c'è da amministrare, non è TV. Sicuramente comunicazione ne sa più di me. Capito, Parenzo? Ma cos'è la ma c'è da amministrare in un paesino, vabbè, tra l'altro, comunque, dove ho letto. Consulente della comunicazione mesi per Bonanno, fa, dai. Un dei tuoi cittadini ha stuprato un cassonetto delle immondizie, perché questo è successo. Questo vecchia, è avvenuto dai. Qualche mese fa nel tuo. Vecchia, dai, beh, su, sarà vecchia, ma questo è impressionante quello che è avvenuto in quel posto. Vecchia, e si vede che il sindaco poi ha detto che pensava che il cassonetto si chiamasse Parenzo. Ecco, va benissimo. Senti, Gianluca, scusami, hai visto che è successo a Perugia, dove pare che un professore abbia preso a calcio e pugno? Ecco, io ti dico, sai che cosa penso io sulle questioni omosessuali? Però io penso che questo professore, se così ho capito ancora, insegna sì, va tutto provato, va tutto deve provato. Deve essere, beh, se è così come dicono, quello non deve più insegnare. Sì. Punto, perché non può dire determinate cose in quella maniera a un minorenne e nello stesso tempo alzare pure le mani, quello fa il professore. Sì, sì. Ha detto essere gay è una malattia e poi gli ha dato calci e pugni, sembra. Se è così è da radiare dall'albo dei professori. Sì, vabbè, poi vedremo naturalmente. Certo. Senti, ma non ho capito, ma noi pare che prenderemo dalla Germania questa nuova formula per il matrimonio, no? Non il matrimonio gay, ma le unioni civili. Non ci facciamo mancare niente, no? Allora, noi sappiamo, almeno credo, gran parte, no? Abbiamo visto che i tedeschi sono famosi da noi perché sono molto simpatici, non sono megalomani, sì. L'efficienza che sconfina molto spesso nella deficienza, addirittura. Hanno un'efficienza talmente forte che ogni tanto sconfina nella deficienza. Basta pensare al nazismo, no? O a pensare a quando, come adesso nella politica economica, sta andando tutto male e questi perterriti vanno avanti. Ma no, perché poi proprio l'altro giorno guardavo un documentario sul processo di Norimberga. Mamma, mi veniva sei ispirato a sorridere in maniera purtroppo negativa che questi qua, dopo tutto quello che avevano combinato, l'unica difesa era: ma noi eseguiamo gli ordini, siamo esecutori di ordini. E qui sembra la stessa cosa nell'Europa, c'è la Merkel, dà gli ordini e tutti diventano esecutori della Merkel, con l'Italia che sta andando a fondo con quest'euro che c'è massacra. Io ho fatto un'interrogazione al Parlamento europeo, ma scusa, dove che rischiamo che ci toccano i soldi nei conti. Ma che c'entra questo con i matrimoni gay, scusa? No, i matrimoni gay, perché noi dalla Germania cosa prendiamo? Prendiamo pure i matrimoni dei froci. Alla tedesca, i matrimoni dei froci alla tedesca. I matrimoni dei froci alla tedesca. Cioè, con tutto quello che c'è, come Marino che va adesso lì al quartiere, no? Ma io penso che non c'è limite Marino, al peggio. Che va al quartiere di Roma dopo che per settimane ci ha rotto le palle per la questione dei registri sui matrimoni gay e hai speso dei soldi per fare ricorso al TAR e invece di prendere quei soldi per cercare di fare qualcosa in quel quartiere. Ma se fosse stato lì io, ma io non lo so. Ma scusa, ma che c'entra il fatto pensare a cose che non servono a niente? Ma che c'entra poi importare il matrimonio? Importeremo forse il matrimonio? Sì, appunto, perché italiani non siamo capaci di fare una legge per conto nostro, no? Dobbiamo sempre copiare gli altri. In questo caso copiamo il matrimonio dei froci tedeschi. Ma tu froci si può dire, secondo te? Eh beh, perché come chiamare? Beh, detto da lui è molto offensivo, ma, però. Ma guarda che non è una cosa brutta, eh. Ma brutta, è offensivo, ma ancora bisogna tornare su questo. Guarda, oggi ne hai già detta una che mi pare sia fin troppo grossa, guarda. Oggi ne hai già detta una che è fin troppo grossa. Per te si può dire io froci. Andrei a nascondermi, fossi in te, guarda. Andrei a nascondermi in una spelonca a Varallo e anche a Sesia, dove ti pare. Vai in una spelonca, nasconditi e non farti più vedere. Ma perché? Che ha detto? Ha detto delle cose gravissime. Dai, lascia, non far finta di non sapere, perché... È il genoma della criminalità, è froci, è io pensavo di aver già sentito abbastanza sui rom. Pensavo prima del 17/11/2014 alle 18:50, perché alle 51 abbiamo chiuso. Copiare la legge sugli omosessuali. Pensavo di aver già sentito abbastanza. Ma perché, froci si può dire. Ma scusa, ma cosa mica ho detto una bestemmia? Vabbè, hai detto una cosa. Tu utilizzi anche finocchi, volendo ogni tanto. Ma cioè. Sì, ma non è che è una cosa sì, un corno, ma sì. No? No, secondo me è amorevole. Scusa, è amorevole. Che mi dicono nanetto piccoletto. Ma è un dato di fatto quello. Quello è un dato di fatto. Frocio pure. Lo hanno fatto anche delle statuette che possono portare buon anno in tasca, se tu vuoi creare un casino da qualche parte. C'è un buon anno da mettere nella tasca. Dice, c'è una rissa da fare. Anche tu non puoi parlare. Ma io non faccio il deputato europeo. Vabbè, dai ragazzi, vi devo lasciare. Perché non ti votano, Parenzo, per quello. Ciao ragazzi. A Cruciani, ha decaduto. La Zanzara. Politiche. Sentite Bersani, altra follia, il patto del Nazareno ha fatto aumentare il titolo Mediaset in borsa. E, caro Parenzo, su questa frase mi sono interrogato molto nel weekend, anzi io non capisco una mazza di queste cose, ho interrogato persone esperte che mi hanno detto che è una cosa di un'ignoranza totale, cioè il fatto che il titolo Mediaset abbia avuto quel giorno in cui si sono incontrati Berlusconi e Renzi un più 6 non c'entra assolutamente nulla, ma proprio zero totale con l'incontro tra Renzi e Berlusconi. Dunque il patto del Nazareno con l'aumento, con il vantaggio del titolo Mediaset è una di quelle cose più ridicole che si possano dire. Tre giorni fa, quando si è rinnovato il patto del Nazareno, no? Quel giorno lì la borsa ha perso il 2,9, crollo, Milano la peggiore borsa, Mediaset ha guadagnato il 6%. Allora io dico, naturalmente, scusatemi lo scherzo, dico ma se funziona così il patto del Nazareno, se è un toccasana di questo genere, ma allarghiamolo a tutte le imprese. Insomma, di che parliamo? Dai. Ah, ma lo diceva scherzando. Ma forse, che scherzando? Ma quale ironia? Allarghiamola a tutte le imprese. Ma sì, allarghiamola a tutte le imprese, nel senso che secondo lui fa bene alle aziende Mediaset il patto del Nazareno, secondo Bersani. Boschi invece dice che il patto del Nazareno, questo è serio, questo è sicuramente serio, il patto del Nazareno è un buon esempio anche per i bambini. A parte che ci deve spiegare il fatto che hanno fatto quella passerella vergognosa all'aeroporto con le treccine, eccetera, e ancora ci sono 130 bambini in attesa di essere, come dire, affidati alle famiglie, 130 bambini che ancora restano in Congo. Questo dopo quella passerella indegna fu, secondo me, con le treccine lì all'aeroporto per accogliere qualche bambino. Ancora ne restano 130. Questa volta, secondo la Boschi, il patto del Nazareno è un buon esempio per i bambini. Ti assicuro, ha detto così, senti. È un accordo tra partiti in Parlamento, come succede in tutte le democrazie, in cui si lavora insieme, anche partendo da idee diverse, per riformare il nostro paese, per renderlo più semplice, più moderno. E siccome sono regole che valgono per tutti, sia la legge elettorale che le riforme costituzionali, perché sono le regole del nostro stare insieme come paese, si scrivono anche con chi non la pensa come noi. Mi sembra sia un buon esempio anche per i bambini. Capito? Siccome le abbiamo scritte insieme, è un buon esempio anche per i bambini. C'è, che fai vedere che c'è la concordia, che c'è l'amore, la fratellanza, la collaborazione. Perché queste banalità? Perché queste puttane? Questo sono d'accordo con te. Dai, su! Sgarbi contro un ascoltatore che gli rimprovera: sei finito, sei stato pagato dallo Stato, ma sei un assenteista. Ma l'ascoltatore è terribile, per tra l'altro. Stupendo, Paolo. Ma voce terribile, Paolo. Cattiva. Il solito Paolo da Udine. Vabbè, dai, Paolo, avanti. Che vuoi dire a Scarbi, sì, un'altra volta? Buonasera, buonasera, che c'è? Cruciani. Adesso me lo manda anche al Quirinale, ma stiamo scherzando. Abbiamo già le palle piene di ascoltarlo qui, figuriamoci al... No, è la verità. Sgarbi, sei finito. Sei assolutamente allora, finito. Allora, guarda, adesso io non so chi sia tu, ma basta che tu guardi. Dove gli ascolti cose. Più alti sono sempre i miei. Tu sei una cose, merda dici. Secca. Una merda ecco, secca. Una merda secca. Sgarbi. No, perché tu finito, lo dici a tua madre, a tua figlia, a tuo cugino. Finito sei tu. Finissimo, sempre le stesse finissimo. Cose. Tu sei finito, penoso. Tu sei finito, finito, penoso. Finito, inesistente, ridicolo. Inesistente, sì, io inesistente, inesistente, inesistente, ma Cruciani, inesistente, che lo invita morto, in trasmissione? Morto, morto, morto. Imbecille, lui e sua moglie. E sua figlia e sua nonna, ecco, colluto, bravo, bravo, ecco, sì. A parte queste gentilezze, caro. Sì, ma che gentilezza, sei finito. Sì, io non sono mai stato finito. Mai stato. Sono ragione, 30 anni che me lo dico. Hai ragione, bravo. Guarda la televisione, ma come la mettiamo? Allora, sei finito tu, sei uno scassamicchia. Ecco, uno scassamicchia. Ma... Hai capito? Ma non rompere il cazzo e ascolta i ragionamenti. Basta Sgarbi, non basta io. No, basta tu che non sei niente. Tu non sei niente. Tu sei morto prima di nascere. Non parli, scorreggi, non parli. Sì, alla porta ti escono scorreggi. Che classe, ragazzi. Quale classe posso avere con un cretino? Sì, il cretino sei. Il cretino eccezionale. Il cretino. E ti copro di insulti. Ti copro di merda come meriti. Ecco, va bene. Scorreggia fritta. Scorreggia fritta. Ecco, quello va sei. Bene. Dopo questa serie di simpatici. Inutile, povero sì. Cretino. Quello sì. Sei. Un cazzo. Caravaggio ha ucciso un uomo ed è un grande artista. Non capisci un cazzo, ignorante. Allora capra, vai a uccidere gente capra, in giro, vai. Capra. Nella vecchia fattoria, io. Bravo. Capra, morto. Ma fermatelo, capra, roba da... ma fermate te, fuori dei coglioni, imbecille. Carlo da Udine, Carlo. Io non sono amico di quello lì di Udine che ha telefonato certo, un momento certo. Fa. Io telefono per altre cose. La sì. Telefonata di ieri sera. Quale ieri sera? Viene... Ieri sera era domenica. Non c'era trasmissione. Scusi, ieri sera. L'ultima di venerdì. Sì, sì. Quando Parenzo, il signor Parenzo, sì. Ha apostrofato che quelli che ascoltano Radio Padania, sì. Non mi viene più in mente la parola, ma io mi sono sentito offeso, perché io ascolto Radio Padania, bravo, ascolto sì. La Zanzara, ascoltavo Zapping quando c'era Forbice, e quindi mi sono fatto un'idea. Allora, Cruciani, numero uno, è bravissimo. Perché tutte le cose che dice di sesso e di compagnia bella, io che sono nato nel 41 ne conosco un po' più di lui di cose, perché io a Torino quando hanno chiuso i casini già lavoravo e a 17 anni me l'hanno data gratis perché facevo bene i cappuccini. No, però scusi, aspetti cosa un attimo. Cosa hanno dato gratis? Ecco, allora no, io no Carlo, chiariamo questa cosa. Un rimprovero a Parenzo e basta, per quello no, telefonato. Ho capito Carlo, però è curioso capire questa cosa dei cappuccini che gliel'hanno data gratis nel 41 eccetera. Com'è lo la sa questa? Perché glielo dico? Perché? Rendo veritiera la mia età, perché magari qualcuno può pensare che non ho 73 anni, li ho già fatti. Questo d'accordo, lei ha fatto 73 anni. Nel 56 anni. Lavoravo in un bar a Torino dove era frequentato dalla Juventus, e c'ho le prove perché c'è un autografo di Boniperti del 55. Ma questo sì, a noi cosa interessa? Però tutta scusi, sta roba qua, signor per Carlo, capire. Non ho capito bene. Però, interessa niente di quel che faceva lui con le donnine. No, ma interessante, fa. Non ho capito, gliela davano gratis? Sì. Le donne delle case chiuse, sì. Perché io non potevo andare, che ero minorenne, non avevo 18 anni ancora, E allora facevo il barista nel bar del più grande casino di Torino, in via Calandra, angolo Corso Vittorio. Cioè, c'era un bar, Valentino. Ma c'era un bar dentro il casino o poi subito fuori il casino? No, fuori, nell'angolo, Corso Vittorio, angolo via Calandra, e lei essere ancora. D'accordo, no, il casino no, il bar forse sì, ma oppure c'è anche il casino, non lo sappiamo. No, il casino l'hanno chiuso. Ma quello non c'è dubbio. Del 58. Sì, d'accordo, benissimo. Io credo che dovrebbe essere interessante questa cosa. No, perché lui dice che, chiavava, trombava, giusto Carlo? Esattamente, a 15, gratis. Perché aveva una nave scuola. Aveva una nave scuola che era in bordello. Aveva 15 anni, lei ne aveva 23. Ma noi questo qui no, cosa interessante, un pezzo di storia italiana come questo. Facevo bene i cappuccini nel bar. Ma saranno fattacci suoi, perché devono interessare i milioni di ascoltatori? No, però, scusa. Il fatto che Carlo da Udine se la faceva dare gratis in un bordello 30 anni fa. C'erano già i gay. Ma cosa ci interessa a noi? C'erano già i gay. Ma che cosa c'è? Vittorio era pieno di gay. E lei che pensava dei gay? Pensava dei gay all'epoca? Io guardi, li conosco bene i gay, perché io ci ho sempre lavorato negli ambienti. Dato che sono un ex cameriere, barista, portiere di notte, sì. I ragazzi gay li conosco, ne ho lavorato con loro anche in Olanda, io in Svizzera, perché sono uno con la quinta elementare che parla tre lingue perché ha fatto 25 anni fuori. D'accordo, con la però Carlo, lei ci vuole... Sì, no, per carità, premette. Ma va benissimo, quello lei non è. Dice dunque che facendo i cappuccini riusciva, insomma, in qualche modo a farsi delle sbattine. Esattamente. Perché facevo il cappuccino col cuore, col colpo di polso, colpo la di schiuma polso. Faceva il cuore. Le signorine, sì. Quelle signorine e anche le altre signorine, quelle sì. normali, qualche volta ci scappava. Poi, ma dovrebbero riaprire. Sì, una signora che ha fatto? Una signora che è diventata la mia nave scuola, sì. era la nave mia maestra di francese. Sì. Beh, vabbè, ma tutta questa storia è, la è come la grande meglio della grande storia di Minoli, cioè la grande storia. Sì, questo. Beh, questa è un'altra diciamo è un'altra storia questa. Dire, sa cosa le potrei dire? No, mi dica, mi dica. Signor Razzi. Sì. Ne racconta di storielle, io ho fatto 15 anni in Svizzera. 15. E allora? Ci chieda al signor Razzi cosa vuol dire Bruder in tedesco. Come vuol dire? Sa cosa vuol dire warm bruder? No, che vuol dire? Vuol dire fratello caldo, che vuol dire schwul e vuol dire gay. Cioè? In tedesco warm bruder, fratello caldo, sono i gay. E che vuol dire? Cioè, allora? I gay, i culatoni, i frosci. Sì, no, ma ho capito, Carlo. Allora, volgarmente si dice schwul. Ah, ok. Detto volgarmente. Le lezioni di tedesco. Il termine è elegante, sì. È warm bruder. Ma secondo lei le case chiuse dovrebbero essere riaperte? Certo che dovrebbero essere riaperte. Perché io le ho visitate questo, anche che non, sì, questo l'abbiamo capito. Andavo a portare da bere. Comunque i gay c'era il bar lì, io andavo a portare da bere. Comunque i gay. Naturalmente ho visto tutte le storie delle case chiuse. E comunque i gay c'erano già nel 41. E mi hanno. Come? I gay c'erano già nel 41. Beh, certo. No, nel 41. In che anno, scusa? Dopo chiuse le case, si è riempito Corso Vittorio fuori di gay e donne. Bene. Gay, Corso Vittorio nel 58. La grande storia, grazie. La grande storia di Minoli. Grazie, ciao. Buon lavoro, mi raccomando, mantenete sempre il vostro frufru, La Zanzara. Marione Borghezio ancora in missione. Scusami, a Roma. Dimmi, ferma tutto, dimmi, ferma la giostra. Che è successo? La Santanchè non parteciperà all'Isola dei Famosi. Sì, quindi vabbè. Vedi che stanno uscendo via via tutti i nomi. Ma no, ma nessuno gliel'ha chiesto, ha detto. Nessuno gliel'ha chiesto. Ma senti, Marione Borghezio che dice che quelli di Casa Pound li vorrebbe avere come figli puliti. Vorrei avere. Voi dove come l'ha detta sta roba? Senti, ascolta che. Siete i figli del popolo di Roma. Se avessi un figlio vorrei che fosse come voi, pulito come voi. Bravo! Ma con voi, stiamo anche con voi. E poi dice, senti sull'antifascismo, senti Borghezione. A me dell'antifascismo non me ne frega un cazzo. Perché non se ne è occupato prima che succedesse questo, dei problemi di Roma, Borghezio? Borghezio? perché non sono uno strozzo. Vengo. No, sta mettendo. Vengo quando mi chiama la gente. E qui la gente mi ha chiamato. Allora, Nando Perugia. Vengo, Nando Perugia. Vengo quando mi chiama la gente. Pronto. Nando Perugia, vai. Sì, Nando Perugia, dunque, che le volevo tutto dire? Talmente tanto che aspetto che mi sto dimenticando tutto. Diceva delle opere. Era. Come? Allora, no, parlava delle opere, no, tanto sono destinate a quella. Ma sì, ma ne parlavo dieci giorni fa delle opere, sì, amico, vabbè, mio, vabbè. Dai. Vabbè, ho chiesto chiuso l'argomento, solo che anche noi uomini siamo destinati a fare quella fine. Vabbè, tutti quello siamo destinati a morire, sì, dai, poi. Dei giorni scorsi, vabbè, io non è che l'ascolto tutte le sere, però ho sentito parlare della Cucchi, no? Sì, abbiamo parlato. Non so se lei, no, ieri, che ne so, io mi ricordo, ieri o ieri l'altro. Questo è un altro drogato, sì, tutto dai, Nando, dai, dimmi. Ride, ride pure. Ma... ridi, Fava, che la mamma fa i gnocchi. Brava Fava, appunto. Io volevo dire, io sono un bravo ragazzo, guadagno qualcuno, risparmio col cazzo. Io volevo dire, cosa della matto, Cucchi, no? Vabbè. Dovrebbe imparare. Sì. Come ha visto che dignità, dignitori, ha visto che semplicità, come non lo so, non li conosco, non posso definire uno dignitoso e semplice. Non conosciamo nessuno, non li conosco, io sento quello che dicono e giudico quello che dicono senza pietismi. Quello che dicono, no, perché certe vicende non ci toccano, ma se la toccassero di persona, io penso che quella ragazza ha dimostrato una grande dignità, sì, una grande fermezza nel cercare. C'è Parenzo che tra parentesi la pensa come la penso. Vabbè, come la vabbè, ha detto vuole ma continuare. Che lei non deve approfitta della situazione. Ma io dico che è una cosa incredibile. Io dico che è una cosa, o dico e ripeto, e poi chiudiamo qui sulla vicenda Cucchi, che trovo assurdo, se non ridicolo. Ma ci sono diverse persone che la pensano come me, per fortuna, che vada a fare l'inviata in un programma di Rai 3. È semplicemente una questione di risarcimento, punto e basta. Dai. L'hanno cercata. Ma sì, loro, ma certo, non l'hanno cercata, adesso non lo so. Ma sa che suo fratello. Ma che vuol dire? Ma non vuol dire niente. Non è che tutti quelli che gli ammazzano i fratelli devono andare a fare gli inviati nelle trasmissioni, se no altrimenti saremo freschi. Dai. Se parli di vibratori, ne parli con le sue figlie. C'ha le figlie, ha detto una volta. Ma chi mai a fare? No, glielo mandiamo noi il regalo. Ha parlato sabato sera, lunedì. Ma qual è il tuo problema? Scusa, non ho capito qual è il tuo. Guarda, che io non mi offendo mica se parli a bambera di figli miei. Un poveraccio. Se sei un poveraccio, continua a rimanere un poveraccio. Sì, tu sei un grandissimo maleducato. Ciao Nando, ti abbraccio. Ciao. Maleducato. Ciao, ti abbraccio. Ciao. Maleducato. E vabbè. Provincia di Milano. No, sono io. Vai, Marco. Sono di Roma io. Vabbè, Marco, provincia di Roma, allora va bene, dai, forza. Ciao. Allora, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Volevo giocare un attimo con Parenzo, perché volevo capire un attimo, volevo fare la domanda a lui. Sì. Su cosa pensava di Zingari? Mi spiego meglio, lui parla, mi spiega cosa farebbe, cosa pensa degli Zingari, e io faccio come lui, gli parlo sopra, senza che lui si firma, gli parlo sopra, perché mi sembra un po' troppo, lui insulta troppo le idee degli altri, e questo non lo trovo corretto, no, volevo poter giocare. Ma che vuol dire insulta le idee degli altri? Non ho capito, cioè dice la sua in un contesto che è questo qua della zanzara. No, lui non ha mai detto la sua, allora, volevo capire la sua sugli Zingari. Ma che vuol dire la sua solitudine? Penso che i campi Rom e Sinti. Che cosa pensa Parenzo degli idee? Ma oggi hanno provato anche a rubarti il portafoglio dentro la metropolitana a Roma. A me direttamente. Cioè, hai visto in azione i Rom all'interno di un vagone della metropolitana di Roma? Vagone, sì, certo. E poi è una cosa agghiacciante: siamo a Piazza di Spagna, figurati. Hai visto in azione le bande Rom. Sono scesi queste tre ragazzine. Quasi linciate dalla gente a un certo punto. Ma è normale. Assolutamente normale. Ma no, fate, ha chiamato la polizia, assolutamente tutti normale. Che qua state linciando normale, tre bambine, ma la gente, se tre ti... ragazzine. Ma linciare è stato mai, ferma la metropolitana mai. Per 10 minuti, sì. Tant'è che è caduta la conversazione perché stavo parlando con te al telefono e non riuscivo a registrare. Ma una scena agghiacciante. Pubblicità. La zanzara è il tendone dei fenomeni da baraccone, e ripeto, lo dico con amore. La zanzara. ormai è tutto degradato ormai. E che cos'è? Che è un bel ambiente? Ambiente di maiali. Sai, Davide, che venerdì sono stato a questa fantastica cena di un gruppo di club, sì, Riccardo Nova, già Fast dice Club. Tutto. No, dice tutto, persone ottime. Sai, ho imparato una cosa. Perdi giorno alcuni? No, non so, assolutamente perdi giorno. Ho visto su delle foto. No, ho imparato una cosa, che effettivamente in Italia non c'è solo gente che chiede lavoro, che chiede continuamente allo Stato, ai governi, alla politica, che protesta, ma c'è gente che fa che pensa che il proprio futuro dipende sostanzialmente da se stesso, capito? Beh, questo tutti, è il punto. No, pensano questo. No. Nessuno no, sta lì no, con no, le mani in mano. C'è gente non è che in Italia, non è vero. Non c'è è, vabbè, aspetta, sarà qualcuno stai tranquillo. Per mentalità. No. Gran parte stai degli una banalità. No, ma quale banalità? Gran parte degli italiani, purtroppo, pensa al fatto che il lavoro debba venire da qualche entità astratta, che qualcuno te lo debba, ma stai tranquillo, mi fai finire, che qualcuno glielo debba concedere e che dunque ti debba dare una mano a trovare il lavoro. Invece io ho conosciuto gruppi di persone che se ne fottono di protestare, di fare manifestazioni di piazza, di chiedere l'aiuto di qualcuno, di dare la colpa sempre alla politica. Perché poi alla fine molto dipende da noi stessi, capito? Molto dipende dalla forza che abbiamo dentro di noi, molto dipende dalla nostra iniziativa personale, ma certo se molto dipende. Ma il lavoro non è che dipende da te. Ma il lavoro tua, te lo devi procurare, amico mio, vattelo a cercare. Ma certamente lo dici, ma certamente, ma chi è che protesta per strada? Non sto dicendo a te, ma questi che protestano per strada non è che vogliono salvare loro posto di lavoro, no, vogliono un lavoro, non quel lavoro. Appunto, vogliono lavoro. No, ma non quel lavoro. Quella fabbrica e chi glielo deve dare? Cioè, non è che e chi glielo deve dare il lavoro? Ma non è chi glielo deve dare, intanto ci sono le condizioni per creare lavoro, se no la politica che cavolo appunto, ci sta a fare, appunto, scusa appunto, la politica deve discorso. Creare le condizioni parlavo, per creare ma io, lavoro io parlavo in generale questi amico quattro mio. Disadattati che hai visto, poveretti, quattro disadattati, Dio buono, dai, ma di che parliamo, disadattati su? Vi ha chiamato disadattati, ma sì, ma sicuro, dai, perdi giorno, ma uno che cosa fa, da parte da dove, da Otranto per fare cosa? Del Riccardo Roma Fan Club. Aspetta, ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ma di insultando. Cosa stiamo parlando? Allora, c'è l'ex capogruppo del PD in Emilia Romagna che dice: la Gabanelli una troia, ti giuro. In un'intercettazione, una troia. Una che no, mi fa venire l'orchito. Lo so, era una telefonata, una conversazione no, rubata. Era una conversazione registrata, rubata. Da uno dei 5 Stelle. La sì. conferenza dei capigruppo. Vabbè, che si riuniva. Che sì, no, questo bisogna abbiamo specificarlo. Detto, abbiamo detto una. Una conversazione rubata da uno dei Movimenti 5 Stelle e consegnata ai magistrati. Se nelle nostre riunioni di redazione, che non facciamo, ma ci fosse qualcuno che registrasse le conversazioni mie e tue. Ma non c'è bisogno di aggiungere qualcosa, hai detto quello che bisognava dire, punto. I giornalisti sono serbi della gleba e teste di cazzo, secondo quello che dice questo signore, Ma è stupendo, Monti piscio sulla sua foto. Questo ha detto. Monti piscio sulla sua foto. In una conversazione privata, però. È una conversazione con dei capigruppo. Il Partito Democratico è il partito con molti idioti. Questo è il capogruppo, ex capogruppo del Partito Democratico in Emilia Romagna. Gabanelli, una troia, che mi fa venire l'orchide. Giornalisti, servi della gleba, testi di cazzo. Monti piscio sulla sua foto. Partito Democratico, partito con molti idioti. Ragazzi, questo ha detto. Poi è agli atti dei magistrati. Per questo si è anche autosospeso, oltre che per la storia dei rimborsi. Sì, non è che me lo sono inventato io, Allora, abbiamo con noi reduce dalla presentazione del suo libro con Silvio Berlusconi, che però subito dopo si è ricoverato. Non vorrei che tra le due cose ci fosse un nesso, ma sto scherzando ovviamente. Michela Biancofiore, buonasera. Come state, amichetti? Come state? Tutto bene? Molto bene. Non c'è alcun nesso, stava già male quel pomeriggio. È venuto solo per farmi, come dire, un ringraziamento per il libro che no, appunto, però c'è una casualità un po' strana adesso, per carità, è una battuta. Però presentazione del libro con te, Michela, e poi subito dopo ricovera San Raffaele, adesso non voglio dire niente. Stava già male, non è che è stato ricoverato per accertamenti, non sta male lui, il presidente, in quanto tale. Ha male adesso. A quest'occhio, stava male anche quel pomeriggio, c'erano gli occhiali. Si è visto. Ecco, ma come sta? Tu che l'hai visto da vicino, come sta? Gagliardo come sempre. Ma come leone, Gagliardo? Assolutamente Gagliardo come sempre. A male un occhio a questa uvetite che purtroppo gli è venuta uvetite, a seguito. No, uvetite, uvetite. Cosa sì, sarebbe uvetite, dell'uva, dell'occhio? Venuto, vabbè, mi è venuto uvetite, va bene, sono un po' ubriaca. Lasciatemi stare. Come ubriaca? Sono stanca, vengo da tre giorni, no, sono praticamente astemia, come tutti sanno. Ma io vengo da tre giorni di stanchezza assoluta, che perché sono stata a Lecce a presentare il mio libro, a Milano il giorno dopo e ieri alla Lamezia Terme. Quindi il gran tour di Goethe, oggi praticamente bene, sei provatissima. Ma scusa, Berlusconi con gli occhiali è affascinante secondo te? No, diciamo che quegli occhiali è meglio che li cambi, ecco. Perché dici? Perché ci sono tanti occhiali, perché non gli stanno bene secondo me. Anche secondo me lo fanno Matteoli, ecco. Sembra un po' Matteoli. Gliel'abbiamo detto. Sì, sì. Secondo me lo fanno anche un po' boss, sai, quei un po' Califano, Califano per carità. Però siete un po' scontati, devo dire che siete un po' da luogo comune, un po' scontati, non fa da voi, su. No, potete fare di meglio. Ma no, da boss intendo, non da boss mafioso, da boss proprio, sai, quei. Ma quando mai, non vi passava neanche per la testa, giusto? Ma no, ma figurati, io penso che Forza Italia sia legata alla mafia, dai, su, Michele, mi conosci. Ma adesso ci mancherebbe solo quello, ci costituiamo tutti parte civile, l'abbiamo già fatto. Ma scusami un attimo, adesso, però io dico una cosa, questi occhiali qua, questi a goccia neri, come lo vedi tu? Vabbè, fa un po', come posso dire, potrebbe fare un po' Top Gun, ecco, però non gli donano particolarmente. Non gli dono, Berlusconi, a Berlusconi, cambiate sti occhiali, perché effettivamente... Gliel'abbiamo detto che quegli occhiali non gli donano. Ma chi gliel'ha regalati allora, scusi? Noi, non lo so, non so da dove l'ha tirati fuori, noi che gli vogliamo bene. Voi che gli volete adesso bene. Adesso nomi e cognomi, insomma, mi sembra un po' esagerato. No, che ne so, qualcuno avrà detto, no, cioè qualcuno... No, ci sono occhiali migliori in giro. Ci sono, dire. Tu stessa, non so neanche di che marca siano. Tu stessa hai osato dirgli. Hai detto, presidente, voglio, per carità, senza offesa. Sono tante le cose che oso dirgli anche in pubblico, come si è visto. Non so se avete seguito la presentazione. No. Insomma, io sono una abbastanza dialettica. Non è che sono una che ha mandato il cervello all'annacquo. No, però non è che si è abituata a dire a Berlusconi, a criticare Berlusconi. Cioè, non è che è una cosa. Assolutamente sì, in privato, sì. Assolutamente sì, in pubblico no, perché è ovvio che io, voglio dire, rappresento un movimento, l'immagine del movimento, ma le cose che non mi stanno bene gliele dico e come. Se no non sarebbe amicizia, non sarebbe affetto vero. Certo, e io non appartengo alla schiera dei Lecchini, assolutamente, proprio non mi appartiene. Ce ne sono parecchi, Forza Italia? Non solo in Forza Italia, in tutti i partiti, ma neanche nei partiti, in tutti gli ambiti sociali dove c'è potere. Beh sì, i Lecchini effettivamente ci sono ovunque, caro Parenzo, bisogna saperli riconoscere. Ma come sta andando questo tour in giro per l'Italia di presentazioni di questo best seller incredibile? Vabbè, se non pigliarla per il culo, non esageriamo, sta andando abbastanza bene. Perché comunque ho fatto 26 presentazioni fino ad oggi, dal 17 di giugno, da quando è uscito, una faticaccia tremenda. Io passo tutti i miei venerdì, sabati e lunedì a fare questo. E tanto porto non ce l'hai fidanzata. Della nostra Italia, di questi quattro. Ma andrà all'Isola dei Famosi lei? Se uno non ha il fidanzato può fare anche questo, signora Biancofiore. Se una non ha detto che non ho il fidanzato adesso, ci sentiamo, è una cosa nuova, è successo qualcosa di nuovo. Un po' che non ci sentiamo, che ne sa se ce l'ho o non ce l'ho. Io sono sempre curioso perché in fondo una storia lasciamo perdere. Stavi per dire una cosa. No, mi corteggi e poi vediamo, c'è quasi una la corteggeresti Cruciani, l'onorevole Biancofiore? Purtroppo sono un po' anzian regime. Ma sarebbe il suo stai buono un attimo, cioè, sarebbe il suo chiudete l'auto. No, ma sarebbe il suo tipo, no. Cara Biancofiore, signor Cruciani, ad esempio. Avesse dei modi più gentili, se si tagliasse i capelli. Può essere, non lo so, gli uomini vanno conosciuti, poi non li conosco mai d'impatto, fino in fondo, però insomma. D'impatto, mentre non so, vi state baciando, lui dice traffico, quindi traffico. Potrebbe essere, sì, bello e maledetto, potrebbe essere. Potrebbe essere. Ecco, questa cosa mi scalda un po' il cuore in questa giornata un po' maledetto, ha detto. Se poi magari come dire, si evince anche quella nota di bontà che c'era anche in Terence, che era l'uomo dei nostri sogni da piccole, noi che vedevamo Candy, che è la storia del mio libro, sostanzialmente potrebbe anche essere, chi si sa. capito? Non si sa mai. Non si sa mai, però è troppo io seria. Sono allibito. È troppo seria per me, però è troppo seria. Vuole fedeltà. Sì, ma chi glielo dice? Vuole fedeltà. Vuole fedeltà. Una vita privata, sì, quello sì. Vuole quello fedeltà. Sì, quello, questo già è già questo un già è già un... ostativo. È già questo, ostativo. Ma la fedeltà può durare anche un giorno, eh? Non è mica detto che debba durare una vita. Come lotta la signora Biancofiore, come lotta col Crux, come lotta. No, come però lotta. Io sa, la questione della fedeltà per me è un discrimine. Cioè, io do subito, come nel film di Verdone, la carta d'identità subito quando mi presento. È cioè, fedele per eccellenza. Infedele seriale. Fedele per eccellenza. Seriale. Ma almeno onesto, ci sono quelli invece che si presentano come fedeli, brava, buonissimi, capito? Brava. Non vorrei no, aggiungere no, altro, su questo, ecco. Su questo lui questo è pulito. Diciamo che lui sono lo dichiara. Fedeli. È vero, io lo dichiaro. No, guardi Biancofiore, lui lo dichiara, dice sempre: io sono infedele, faccio la pipì, non alzo mai la tavoletta e lo no, dico. Quello mi fa schifo, diciamo no, proprio chiaramente, fa così. Quello non si può accettare, può essere pure però Brad Pitt, ma non si può accettare. No, ma quello non è vero. Adesso non alza mai la tavoletta, adesso. Tant'è ma che il suo personale di servizi. Ma no, può capitare anche Brad Pitt se fa schifo, fa schifo. Questi ma sono non è vero i due questo. Difetti principali. Vabbè, poi c'è dell'altro. Le credo, non ma credo non è vero, vi assicuro che il numero del domestico, poverino cinghialese. Ma non è vero, cinghialese che lavora e gira con una palla legata al piede, perché Cruciani in questo modo ma lo tiene vero, legato pazzo. All'interno dell'area della casa e lo fa girare ma con questa impazzito, palla al piede e ha convinto il povero cinghialese che gli fa bene anche perché così fa esercizio ginnico. Devo guarda dire se. Che è un'altra puntata di politica questa di questa sera. No, allora, torniamo alla politica. Torniamo alle cose vere. Però c'era un accenno importante a una cosa, caro onorevole sì. Santanchè, non so perché perché stavo leggendo un tweet della Santanchè che ha specificato che non partecipa all'Isola dei Famosi, ma non prima. È che hanno offerto pure a lei, no? Signora Biancofiore, no? Non me l'hanno offerto assolutamente, no, proprio zero. Infatti, zero, no, meno no. Male. Meno male, sarebbe stato in imbarazzo magari, no? No. Se facessi un altro mestiere, no, ma siccome faccio questo mestiere sarei molto in imbarazzo. Cioè, certo. se non facesse il politico ci sarebbe tentata? No, diciamo che se non facessi politico mi piacerebbe vivere su un'isola deserta ai Caraibi, quindi potrei essere nell'immagine tentata, ma non nel fare il programma. Ecco. Da sola ai Caraibi, magari con un... come si chiama l'attore là di quel film con la Melato? Come si chiama? Giannini, Giannini. Con un Giancarlo. E anche col figlio, quello che ha fatto il film con Madonna, che è anche un po' più giovane, un po' meglio. Via. Ah, adesso c'è, scatta pure il Gemma, è una cosa pazzesca. Però no, è bell'uomo, scusi, ma uno ora deve essere oggettivo, un gran bell'uomo che ha fatto questo film con Madonna che è il revival del remake del film della Melato. Ma veramente, veramente si è fidanzata? Perché adesso ci sta sfuggendo questa cosa. Non si sa, può essere. Vabbè, tutto generico. Un attimo, allora, dopo... girando, uno gira col libro, gira. Ah, girando qualche avventurina così veloce di quelle rapide. Ma non sono una donna d'avventura. Purtroppo no. Però ho detto che la fedeltà può durare anche un giorno. Vabbè, perché poi vi spaventate voi maschietti quando vi diciamo così, ma capito? Perché poi vi piacciono le donne pericolose, no? Quelle che sembra che vi strapazzano e che vi mettano KO così, quelle sono poi fondamentalmente veramente pericolose, nel senso che poi vi usano e vi gettano, ma voi vi piace magari tanto. Ma magari essere usati e gettati, ma tutta la vita, ma magari fossi usato e gettato, ma proprio domani sì. Dove devo firmare? La vorrei vedere Giuseppe piegato in due genuflesso a piangere. Ma no. No, ma io ho già pianto troppo in epoche molto ormai su. Allora siamo in due, possiamo consolarci. Ma sì, esatto, bravo. Ma ormai c'è un grande feeling, la pubblicità dopo la politica, vai. Poi parliamo un po' di politica, perché un po' bisogna parlare mi di politica. Mi sembra il caso. Anche se la politica ormai è finita. Io lo so che lei si annoia tremendamente a parlare di politica, e questo è il punto fondamentale, perché poi alla fine lei si diverte molto più a parlare di queste cose un po' così, che sono le vere cose della vita, l'amore, le ma conoscenze, i sentimenti. Sostanzialmente, ma la politica esatto. Vuole che non mi diverta. Ma la politica è finita, la politica è morta, finita. Che bisogna, ormai siete andate a braccetto con Renzi, diciamola tutta. Andate a braccetto con Renzi. Perché andiamo a braccetto con Renzi? È morta perché è abbiamo morta, fatto venire meno l'unità di base della politica, cioè il consenso. Si è nominati in tutto, siamo come a Cuba, ormai per censo. A tra poco. Ah, oh, disgraziato. La zanzara. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Comunque la cosa più bella, ragazzi, della missione della senatrice Taverna dei 5 Stelle a Tor Sapienza è che ha trovato qualcuno più coatto di lei, questa è la realtà. Cioè, quando sentiamo quelle persone aggredire la Taverna dicendo ma che è il Movimento 5 Stelle, mica la Caritas, non è la Caritas, dicendo che sono comunque è comunque un partito politico, uno dovrebbe rivendicare il fatto di appartenere ad un partito politico per fare qualcosa per le periferie, eccetera eccetera, e quando sentiamo lei dire ma io non sono un politico, ha trovato qualcuno più coatto di lei che le risponde. Questa è la cosa fantastica, perché com'è, no, quella... non si fanno pigliare in giro più che no altro. Ma lasciamo perdere il fatto di no, certo, se tu vai là e dici perché sei venuta qui allora proprio in questi giorni, non ti avevo mai visto prima, non si fanno pigliare in giro, non è questione di coatti o non coatti, quella è gente esasperata, giustamente. Comunque ripeto ancora che le persone che ho incontrato negli ultimi giorni, le persone appartenenti al nostro, come dire, al nostro pubblico, che sono venuti con me a cena, non è tutto il pubblico, no, ma aspetta, no, ma d'accordo, però sono diverse rispetto a quelli che vanno a protestare, così la mia sensazione è lavoro, quelli che chiedono e non si fanno invece un mazzo così per ottenere le cose dalla vita. Poi magari ci saranno pure parassiti, eccetera, certamente non fanno quelli che vanno a protestare o a chiedere lavoro di continuo, eccetera. Dai, ma gente cosa che si guadagna la pagnotta ogni giorno, sì, che non ha tempo di andare a protestare per strada. Dai, su, diciamo la verità, non ha tempo di andare a rompere i coglioni. Non ha tempo di fare un fan club. Su, ma smettila. Ma cosa fanno nella vita? Ma non, ma mica, non, tanti mestieri diversi. Li hai incontrati? Certo. Sarà rimasto in mente una o uno, ah, una. Di tutto, guarda, di tutto. Trader, gente che lavora in borsa, gente che lavora tassisti. Certo, anche sì, tassisti, perché qual è il problema? Poi? Ma abbiamo con noi Michela Biancofiore, Forza Italia, che ha presentato il libro con Berlusconi. Dopo Berlusconi si è ricoverato. Ma io dico una cosa, lei veramente crede che ancora Berlusconi possa... Era grande entusiasmo, eh. No. Ti posso assicurare che era molto soddisfatto dalla serata. No, però voglio. Gente che gli si lanciava addosso, mi sono pure preoccupata. Ma come gente che gli si lanciava addosso? Per baciarlo, però. Ancora. E non era una manifestazione di Forza Italia, non c'era una bandiera di Forza Italia, era una manifestazione di presentazione. Ma c'è ancora gente che si getta addosso a Berlusconi? Beh, certo. Pensate, guardate le immagini di repertorio, pensate che a Milano c'era il 100% di piovosità, pioveva che Dio la mandava, la sala era strapiena. Vabbè, nonostante questo, penso che se ci fosse stato il sole sarebbero venuti, non con i canotti, ma insomma sarebbero venuti migliaia e migliaia di persone. E lui è entrato è la verità, si è interrotto il diluvio. No, non si è interrotto, non ha ancora aperto le acque, però insomma poco ci mancava. Là dentro le acque erano abbastanza, come dire, se erano... Ma scusi, secondo lei Berlusconi è uno che è in grado di fare miracoli? Cioè, in un certo senso sì. Il miracoli intesi ovviamente da un punto di vista di Dio sceso in terra, però uno è trino, lo è. Uno però è trino. Se tocca, ad esempio, se tocca una persona, ragazzi, tutto gli si può dire, tutto si può dire, tranne che non faccia miracoli, almeno da un punto di vista elettorale. Sì. E poi che stavi dicendo, Parenzo? No, voglio capire, se tocca o sfiora, ad esempio, una persona dicendo ti auguro tutto il bene possibile, trasferisce in un certo senso, come dire, quasi una magia, una luccica, cioè porta fortuna. Beh, no, se ti tocca, è la storia della sua vita, è la storia della cioè sua se vita. Tocca una persona, questa persona in qualche modo è ne ha grazie. Quando lui si pronuncia su alcune persone all'improvviso hanno la ribalta, è sempre stato così, cioè dà luce alle persone, dà luce. Ahimè, ha anche, come dire, talvolta battezzato persone assolutamente immeritevoli, tipo? Però, che poi si è visto a lungo andare. Alfano, sì, non si riferisce, sapete anche voi. Si riferisce ad Alfano. Voi, insomma, lei ha il dente avvelenato, lei. Sì, lei con Alfano. Non io, il nostro elettorato, non io. Vabbè, il quello. Le cose cambiano, le cose. Ma lei è mai andata in un campo? Infatti, adesso si sta facendo, infatti, tutti un volemose bene, come dite voi a Roma, però insomma. Beh, sì, Berlusconi è ancora un po' affezionato ad Alfano, non so perché, o no? Beh, ma lui è affezionato a tutte le persone con le quali ha fatto un percorso di vita insieme, sono gli altri che purtroppo invece non se lo ricordano, per gli altri la gratitudine è il sentimento del giorno prima, come diceva Andreotti. Ma lei è andata a trovarlo in ospedale? È andata a trovarlo in ospedale? No, non sono andata perché stava, cioè ancora era andata a casa la sera che io ero a Milano, poi il giorno dopo ero alla messa terme, quindi non sono andata a trovarlo. Non ma è andata non a trovarlo. Male, non no, vabbè, però c'è sempre sta storia della statuetta, no? La statuetta che quella statuetta purtroppo è quella che gli ha detto. gli ha cagionato non solo la perdita di due denti, l'ha quasi ammazzato, perché se lo prendeva sulla tempia lo avrebbe ammazzato, e ha soprattutto cagionato questo problema. E quello non ha pagato nemmeno un giorno. Ma questa è la storia dei nostri tempi. Anche quelle persone che protestano in piazza, alla quale prima facevate riferimento, se hanno letto oggi che il ministro Orlando vuole addirittura depenalizzare i piccoli furti, che lui chiama bagatelle, proprio di rom eccetera eccetera, che si introducono nelle nostre case, è ovvio che la gente sarà sempre più esasperata. Vabbè, senta un attimo, ma Renzi, perché alla fine Berlusconi è così, al di là delle critiche, poi innamorato, di quello che quasi. È innamorato, diciamo la verità, al di là delle... ma si è innamorato di Renzi, è il politico che ha sempre sognato, l'ha sempre sognato come suo erede. Veramente Berlusconi ha sempre sognato se stesso come politico. Va bene, d'accordo, però se c'è uno se stesso, perché indubbiamente Renzi, come io scrivo nel mio libro, che è un po' la storia di questa nostra generazione, indubbiamente Renzi, io chiamo Berlusconi Generation, è un OGM, cioè è un OGM geneticamente modificato a sinistra del berlusconismo. È Renzi che ha preso tutte le armi. Vabbè, d'accordo, però Berlusconi ne è affascinato. Ma no, si rivede un po' in lui, nel senso che è un grande comunicatore. È il figlio che ha sempre voluto avere. È una persona che sa parlare alla gente, però ovviamente non ne condivide la politica che fa tutte quelle cose che Berlusconi ha sempre voluto fare, attaccare i sindacati, provare a fare la riforma del lavoro, eccetera eccetera. Perché Berlusconi non l'ha mai fatto, l'ha sempre fatto il partito comunista, che ha sempre detto una marea non di c'era più il partito sull'azione del no c'era c'è anche adesso, purtroppo, perché chi sta mettendo gli ostacoli a Renzi è proprio l'ex partito comunista, insomma, che ancora vive e vegeto nella cultura generale della sinistra. Senta, ma lei è mai andata in un campo rom? No, non ci sono mai andata. Non ci andrà, una bella visita. Non ci andrei. Se devo essere sincera, non ci andrei, no. Assolutamente. E i rom, secondo lei, come li considera i rom? Un po' adatti a delinquere, insomma. Non mi fate queste domande. Perché? Perché? Che è successo? Perché non voglio rispondere. Com'è? Che è successo con i rom? Che succede? Sicuramente non sono, diciamo così, la popolazione che amo di più al mondo. E come mai? Che è successo con i rom? Perché sono atti spesso e volentieri a delinquere, come lei ha detto. Cioè hanno nel loro DNA, dice lei? Non tutti, ovviamente, l'attitudine in tutte le città purtroppo è quella. L'attitudine è quella. Cioè hanno un'attitudine. È chiaro che non si può mai fare di ogni erba un fascio, però lei dice non andrei in un campo rom, anche perché poi non mi piace fare quel tipo di politica demagogica dove uno va a visitare i campi rom per poi farsi menare, per poi farsi vedere sui giornali, per denunciare, cioè alla Salvini dice lei, no? Alla Salvini. Sì, ma anche alla Salvini. Rischia di essere l'uomo forte del centrodestra. È il suo leader ormai. Ormai potrebbe diventare il suo leader. Si arrenda. Lo escludo assolutamente, lo stimo, ma lo escludo assolutamente. Salvini non è un uomo unificante del centrodestra, mentre invece hanno già cambiato l'inno. È ancora leader incontrastato, poi prima che la Lega ci superi ne passeranno. Pare che in Emilia Romagna Lega che siamo tanti. La candidatura a presidente è normale che ci batta. Se tu hai il candidato presidente che tira la lista, bisogna sempre chiedere ai nostri sommi dirigenti che hanno affidato quella candidatura alla Lega. Rispetto a Berlusconi è il suo leader, basta, mettetemi la musica di Forza Italia che ve la rifaccio io in time. Forza Lega che siamo tanti. Però è vero Berlusconi abbiamo ha detto, aspetta un attimo, Berlusconi ha detto campo rom. Berlusconi il gioco di Salvini è facile perché lui è libero, non ha patti del Nazareno e soprattutto non ha responsabilità. Ho capito, ma mica l'ho fatto io. Non ha mai avuto e non ha responsabilità di governo nei confronti di questo paese. La verità la volete sapere. Qual se è? Volessimo essere seri in questo paese, purtroppo non lo si è, sia a destra che a sinistra, la verità è una sola: questo paese non lo salva né Renzi né Berlusconi da solo dall'altra parte. Questo paese si può salvare soltanto con una grossa coalizione vera alla grosse tedesca, coalizioni. Ha fatto la Merkel, c'è già perché adesso. Noi parliamo sempre della Merkel, no? Ma c'è già c'è adesso la coalizione, glielo faccio presente, cara. Non c'è nessuna grossa coalizione, la grossa coalizione vuol dire mettere uomini di governo 50-50 di peso, non questo infatti governo, c'è Alfano, sarà mica di sinistra Alfano. Proprio di peso, sicuramente. Dico uomini di sinistra e di destra di peso, cioè di centrodestra e di centrosinistra di peso, perché non c'è ricordiamo la gente, perché non lo sa, che noi parliamo, enfatizziamo sempre il mito della grande Germania vincente in Europa e economicamente ambiente, nonostante ci sia la recessione anche capito, per i tedeschi. La verità è un'altra, che la Merkel è da due legislature che ha fatto la grande parla con la... No, ma scusi, cara. Di che parliamo? La verità è che le riforme che stanno a questo ragazzi... paese si possono fare soltanto insieme con una grande empatia. Perché l'empatia vera. Io invece vorrei vedere. Però vorrei vedere lei fidanzata con una donna invece che con un uomo. No. No, perché con una donna? Perché no, mi piace questa idea, mi piace l'idea che lei... Sì, non è brutta, categoricamente. C'è proprio, una svolta... Mi piace dirlo, ma insomma è noto che se non ha... Una svolta... Una svolta lesbo. Beh, saremo... No, non mi appartiene. Saremo proprio, veramente al top. Per carità lo rispetto per chi, perché lo sappiamo che lo rispetto, per carità. Ma non mi appartiene. Ma guardi che sarebbe veramente una svolta. Una mia amica, per esempio, dopo un sacco di... Una bellissima, una mia amica molto bella... Ma piuttosto mi farei suora. Addirittura, perché dopo le tante delusioni d'amore può darsi che mi farei suora, ma la svolta lesbo purtroppo non ve la aspettate. Suora, perché più suora? Piuttosto, se uno proprio deve stare, capito? Cioè, voglio dire, almeno, capito, trovi la tranquillità, la pace, insomma. Piuttosto mi faccio suora. Vabbè, grazie, buona serata. Grazie, suora. Arrivederci. Arrivederci, ciao. Altro che vai in onda la zanzara, tra una pubblicità e l'altra vai in onda la zanzara, mamma mia quanto mi massacrano. La zanzara. No, a me piacciono i mostri, a me piacciono i mostri, io voglio Borghezio, io voglio tutti i mostri, può fare anche Peppe Fetis, tutti i mostri possibili e immaginabili devono passare da qui. Allora ragazzi, il sindaco di Roma Marino forse pagherà le multe, Non si sa non si sa quante ne pagherà, tra l'altro. Domani credo che farà il grande annuncio in consiglio comunale. Così dice all'Annunziata, che fa un'intervista lunga con Marino, un confronto con i residenti di Tor Sapienza. Dopodiché sentite come, ma c'era un accordo preventivo evidente, no, tra i due. Alla fine però fa finta, diciamo, quasi mi scordavo. Senti. Però se le multe le paga. Mi sono dimenticata. È venuto in panda, le multe le paga. Ma io penso che anche loro credano che il sindaco di Roma possa, avendo rinunciato rispetto al sindaco precedente che gira ancora con la macchina pagata dalla Polizia di Stato e quattro uomini della Polizia di Stato, un sindaco. Marino, le multe le pagheranno? Un sindaco può girare per la propria città. Ma le multe le paga sì o no? Risponderò dopodomani, come mi è stato chiesto, nell'aula consigliare che è il posto giusto. Va bene, quindi nessuna anticipazione, però insomma una grande abilità ad aggirare le risposte. Cioè, ma ti pare normale dopo mezz'ora di intervista? Beh, ma non si sono messi d'accordo, no? Era troppo spontanea la cosa. Ma uno fa finta alla fine che si è scordato di chiedere delle multe. Sì, la conosco l'Annunziata, ci sta. Ma così. Per carità la conosco perché pure io. Perché si era fatta. Io l'ho vista quella intervista, era molto bella. Perché siccome si è fatta. Perché ha focalizzato la tensione e il racconto con quelli del. Ma sono d'accordo a non fare tanto un'intervista sulla multa. Ma se no gli avrebbe risposto, no? Se fossero stati d'accordo. Ma scusa, d'accordo. Su che non gli ha risposto Mario da Cosenza, ma non gli ha dato nessuna notizia perché ha detto ne dirò in consiglio comunale, Mario, no? Da Cosenza. E quindi non erano d'accordo, capito, ma c'era da fare, nulla. C'era da chiedere perché non l'ha pagata fino adesso. Uno volendo faceva 10 minuti di intervista su Marina e multe, forse più dai, focalizzato e più interessante capire perché era stato fischiato un giorno prima da. Come si sono Mario bello. Da Cosenza dai. Scimmia sei diventato dai. Mario vai. Sì, dico Cruciani, lei è di una volgarità, di una maleducazione molto sgradevole. Sì, può darsi, alcune volte sì. Allora, qual è il problema? Ha proprio l'idea di essere servo di coloro che lavorano per corrompere gli italiani. Li descrive sempre questi italiani come gente... Servo di coloro che? Servo di coloro che? Non ho capito. Che lavorano per corrompere continuamente gli italiani. Servo di coloro che lavorano per corrompere. Sai che non ho capito veramente un cazzo di quello che ha detto lei? Ma non ho capito proprio una mazza. Parla sempre, poi ma non ho capito nulla. Tutto maschile. Come? Mi sembra quei figli di papà, no? Sì. Che vogliono fare i duri per essendo volgari. La stessa cosa Parenzio. Proprio un arrogante, ignorante. Un servo dei sionisti come Grillo. Servo dei sionisti. Papale papà. Come servo Grillo, dei sionisti come Grillo, non ho capito questa cosa. Servo dei sionisti, uno dice vabbè, servo dei sionisti, la solita cosa, eccetera. Come Grillo perché? Perché Grillo è servo dei sionisti, non lo sa. Non mi risulta, francamente. No, francamente ha scritto no. delle cose terribili, però. Sì, no. Allora siete proprio due burattini. Cioè, sì, siamo due coglioni. Questo può essere. Fate. Sì, voi non sapete nemmeno come vi usano. E invece lei è consapevole di tutto, no? Io sono un italiano, non uno di quelli. Quello che lei sia un italiano su quello lo dice lei, no. Poi tra l'altro che un italiano, magari per me potrebbe essere pure un islandese, un marocchino. Come lei dalla sua carta d'identità, io do la mia. Lei descrive gli italiani come delle persone. Persone? Sempre da poco, invece no, guardi gli italiani. Chi ha detto che descrivo gli italiani come gente da poco? L'italiano medio, incontrandola per strada, sì, non le darebbe una lira, invece le hanno messo un microfono in mano a lei. Sì, no. Sì, allora? Ma lei si rende conto di quale importanza ha il suo lavoro? Cioè, no, io mi rendo conto del fatto che mi diverto come un matto. Invece lei si diverte come un matto. Come un pazzo. Ma va bene. Mi diverto come un pazzo. E mi pagano per divertirmi, questo è il punto. No, la pagano per andare contro gli italiani, questo lo deve dire. Beh, questo per andare contro gli italiani adesso mi sembra troppo. Al contrario, tutti coloro che descrivono gli italiani come gente da poco, che sono volgari, voi siete degli status symbol e non lo sapete. Degli status symbol? Io non ho molto capito, guarda, anch'io non ho capito. I giovani italiani che vi sentono, finiscono per credere che l'italiano medio è come voi, ma non è. Ma chi l'ha detto? Ma non è vero che la gente che sente... Speriamo di no. Gli italiani sono grandi persone, sono persone oneste, persone in gamba, sono persone eccezionali. Allora chi ha detto niente? Ci sono degli italiani eccezionali, non c'è dubbio. Allora non qual è ci sono gli italiani. Ma chi l'ha detto? Gli italiani sono eccezionali in maniera generica. Gli italiani sono eccezionali. Sai queste frasi così? Adesso la vanno a prendere, lo tornano a prendere. Adesso interviene qualcuno, dai. Tornano adesso. Genericamente tratta sempre gli italiani come persone. Prima parlava. Questo ha detto all'infermiera, ti dico io. Come se il lavoro dovesse venire da un. Questo qua ha detto all'infermiera, dottoressa. Ci sono molti italiani che pensano che il lavoro debba venire chissà da quale entità astratta. Parenzo chiama sempre i dottori e gli infermieri. No, le dico io cosa è successo. Lei ha chiesto l'autorizzazione. Il medico è venuto a fare il solito giro delle stanze. Ha chiesto all'infermiera. Ha chiesto all'infermiera. Certo che ho minacciato quello lì. No, non ho minacciato quello, viene denunziato. Lei ha chiesto all'infermiera. Posso uscire un attimo in terrazzino a fumare una sigaretta? L'infermiera ha detto va bene, però torni tra 10 minuti. Lei è lì col telefono dal terrazzino dell'ospedale dove lei trattenuto e ha fatto questa chiamata. Adesso l'infermiera arriva e dice: allora ha fatto la sua telefonatina, ecco, torni adesso qui nel letto. Vabbè, si Mario, la devo salutare, dai, ti saluto Mario, ti saluto, ciao. Vabbè ragazzi, qui c'è un grande ritorno alla Zanzara, un grandissimo ritorno. Battiato? Il presidente dell'associazione Sacrum Imperium, caro Parenzo, Maurizio Ruggero, eccolo. Buonasera qui. Fusani, caro, caro Ruggero, come va? Ciao Ruggero, ciao. Beh, diciamo che oggi il Papa ha rimesso Sacrum un po'. Sacrum Imperium, mi l'avevo dimenticato. Tra ieri Sacrum e oggi Imperium. Il Papa ha rimesso le cose a posto, però, perché molti pensavano che questo Papa fosse un Papa, anche lei Ruggero, un Papa socialista, un Papa comunista. In realtà questo Papa ha detto delle cose ben precise, che la famiglia è quella tra uomo e donna, ha parlato anche e dunque ha detto in sostanza che una famiglia può essere solo quella tra femmina e maschio, e ha parlato anche d'altro, se vogliamo, per cui insomma ragazzi non è proprio così socialista sto Papa, oppure Ruggero non t'ha convinto? Dunque, io già il fatto stesso, caro Cruciani, che lei si stupisca che Bergoglio abbia detto questo, la dice lunga sulla situazione in cui siamo. Cioè il Papa, perché secondo lei resta comunista? Ma scusi, ma cerchiamo di essere seri. Se persino intellettuali laici, come ad esempio Norberto Bobbio, erano antiabortisti, e forse se le avessero fatto la domanda... Ma anche sull'aborto ha parlato oggi il Papa, ha detto che devono essere... bisogna fare obiezione di coscienza, capito? Appunto, ma io quello che dico è questo, cioè per essere antiabortisti non serve essere cattolici, basta essere secondo natura. Cioè è evidente che ammazzare un bambino non va bene. Cioè arriva forse persino Parenzo. No, io sono a favore dell'aborto, ovviamente. Sinagoga. Ma noi siamo tutti a favore dell'aborto, del divorzio, dell'eutanasia, per cui ho girato anche uno spot. Al di là dell'oppio delle religioni, appunto, che è il giudaismo, però al di là di questa cosa c'entra quello? Ma guarda, è un salame. No, però se vuoi vai in sinagoga Parenzo, questo. Allora, quello che dico io è basta essere semplicemente secondo natura, che uno sia ebreo, buddista, italiano. Ma secondo natura, secondo te cosa sarebbe secondo natura? Spiegami. Secondo... Allora, essere, non è che sia difficile spiegare, uno ci arriva da solo. Comunque, diciamo, visto che non è così scontato, lo spiego. Cioè, basta semplicemente che uno capisca, secondo natura, che uccidere un bambino non va bene e che il matrimonio si fa tra uomo e donna. E solo la follia omoerotica di questo periodo, omosessualista o cosa di questo tipo, che vorrebbe imporre a tutti i costi una cosa diversa. Stiamo parlando, Maurizio Ruggero, di un personaggio come te che ha dichiarato di essere vergine. Questo è il punto. ma io dichiaro di non avere relazioni con donne per la semplice ragione che fin tanto che non mi sposo non le ho, è evidente. Ma non è anormale, quello che è anormale invece, tu hai detto di essere vergine alla tenera età di non so quanti anni, hai detto 50, di essere ma per voi, allora, per voi ma non è possibile questa cosa, io voglio ma che ma sia per voi è più normale, ma scusate, ma per voi è più normale invece avere relazioni sodomitiche piuttosto che mantenere la castità secondo me. Ma che vuol dire sodomitiche? Caro Ruggero, tu che sei un grande sei veramente battagliere su questo punto. No, ma aspetta un attimo, io prima. Ma lascia perdere Bergoglio, ormai tanto lo sappiamo. Niente di Bergoglio, adesso non gli frega più niente a Cruciani di Bergoglio. No, non me ne frega niente, mi fanno ridere quelli come Pannella e altri che pensano che Bergoglio sia devoto ormai a quale chissà quale causa, mentre poi scoprono che non è cambiato nulla. Però lasciamo perdere. No. Ruggero, ti voglio chiedere una cosa: come è possibile che tu sei vergine? Io allora, la domanda è: come è possibile che Cruciani intanto si impicci di fare il confessore quando lo è? No, ma l'hai detto tu tempo fa. Che ritenga normale che ci siano le relazioni sodomitiche, sono relazioni infami. Cioè, relazioni infami e relazioni sodomitiche? Beh, certo, assolutamente infami. Ma quelle tra uomo e donna o quelle tra uomo e uomo? Non ho capito. Ho detto sodomitiche, parola sodomitica, che vuol dire? Ma spiegamelo. Quelle tra soggetti evidentemente che praticano atti omosessuali, talmente evidente. E invece un uomo che lo mette nel culo a una donna? Ma lasciamo perdere questi discorsi qua. No, ma lasciamo perdere, va bene o non va bene questa roba qua, Ruggero? Va bene o no? Si chiama sodomia, in termini morali si chiama sodomia imperfetta, quella che dice. È imperfetta, cioè tu chi la pratica, che cos'è? Chi la pratica? Chi è? Però non va bene, però diciamo. Non va bene, ma tu non la conosci nemmeno, non l'hai mai praticata, sei vergine, hai detto di essere vergine. Appunto, io non l'ho praticata perché non sono un sozzone come voi. Ma la masturbazione la pratichi o no? La masturbazione la pratichi o no? Ma non sono un sozzone che ha 10 mogli o 50 amanti come oggi sembra normale, perché ma la masturbazione la pratichi o no? La masturbazione, ma la cosa è vietata, cioè non si può. Ma non è possibile, Ruggero, è una di quelle quanti cose anni hai, Ruggero, quanti anni hai? È una di quelle cose quanti anni hai? Ma io non mi faccio mettere sotto processo. Ma no, ma quanti anni hai? Non è possibile. Sotto confessione da parte di gente come voi. Allora, però io ti voglio presentare una persona. No, la persona che per me in questi ultimi giorni, per quello che ha detto, per alcune massime che ha esposto, ma lo dico sul serio, perché l'ho già detto alla radio più volte, è diventata un punto di riferimento. Un'icona, sì, è vero, un'icona. No, per alcune cose che ha detto su. Sentiamoci l'icona di Ruggero, ci divertiamo un po'. No, Ruggero, dai, per carità. Vediamo. Valentina, come stai? Ciao, buonasera. Valentina Nappi. Io ho detto alcune cose perché la conosci. È notoria, è una pornostar, cioè, purtroppo diciamo io ho dovuto avere molte frequentazioni televisive con pornostar, quindi non è il caso di questa. Hai iniziato con me, amico sì, mio. Aspetta. Posso fare una domanda? Vai Valentina, fai una domanda. Il fattore corruttivo comincia a comparire. Allora, secondo natura, spesso le leonesse ammazzano i leoncini che considerano malati. Quindi, secondo natura, se uno è malato, così lo ammazziamo, lo togliamo di mezzo. La natura questo è fatta. Significa contro natura. Anch'io che ho voglia di chiavare 10 volte al giorno. Come dice, sono signora, naturale, scusi. Oppure sono un prodotto di qualche alieno. Complimenti per il linguaggio da educanda, signorina. Complimenti intanto per educare. Signor Ruggero, l'educazione la metto sotto il culo nel 2014. Complimenti, ma dove le trovate queste parole? Sotto qui sono fallace. Alla scuola della sinagoga di Parenzo. No, le parole sono. Aspetti, per rispondere alla domanda. Brava Valentina. Allora, la cosa è questa, perché Valentina Nappi ha detto un'altra cosa: che spesso le parole, la forma delle parole, cioè parlare per cose astratte, per metafore, è una cazzata. Bisogna dire le cose, come dire, usando un linguaggio il più chiaro possibile. Essere volgari, no, ma la volgarità è la tua, è un discorso un po' non io, la sua è volgarità, non la mia. Vabbè, allora certo, lei che invece fa un mestiere particolarissimo va benissimo. Ma perché quel problema? Lei segue la natura, lei è santa, sicuramente. Lei ha detto che segue regolarmente, va benissimo. Ruggero, Valentina Nappi ha detto che segue la natura perché ha voglia di chiavare 20-10 volte al giorno. Secondo il suo schema, io seguo la natura e quindi va bene. Che sia secondo natura avere attrazione per l'altro sesso è fuori di dubbio, quindi non c'è nessun problema. Il problema qual è? Che bisognerebbe che la signorina, comunque, al di là del linguaggio anche la sodomia è secondo natura, anche non sorvegliato, aspetta Ruggero un attimo, avesse relazioni soltanto con suo marito, se ma figuriamoci, ma questo secondo chi? È difficile chiedere naturale. Ma secondo natura che chi l'ha detto che secondo natura bisogna avere relazioni solo col marito? Ruggero, chi l'ha detto? No, questo non è secondo natura, è l'attrazione. poi la dottrina giustamente della Chiesa ti dice, senta, come norma morale, come norma morale, che si hanno relazioni soltanto con quello che è il proprio marito. Ma è evidente, questo è talmente secondo ovvio. Secondo natura. Vabbè. Invece secondo natura crucianea, andare con sodomiti va benissimo. Cioè, ma che c'entra? Ma non... totale che avete voi. Cioè dire... Ruggero, in pratica uno deve dire oggi delle cose che sono ovvie. Che Valentina, tu ci credi? Valentina, tu credi che sia vergine Ruggero o no? Ma no, non devi credere niente, sta Valentina. Non è, allora, i problemi individuali delle persone penso non interessino a nessuno. Mi dispiace per il suo stato di salute, ma mi sa che quello mentale. Sì, però io credo che dovrebbe darsi un'occhiata all'anima lei. Se vada un buon confessore, ma che confessore? Perché per l'anima mia ci ho già pensato, non ti preoccupi. Eh sì, perché l'anima sua non è messa bene, perché vedete se che il mio è di certo con me e non con lei. E con che questo l'essere umano ed è contro l'essere umano. E con questo dobbiamo chiudere, ma riprenderemo a presto. E che cos'è? Che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.